Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, eccoci. Avete preso il caffè? Io l'ho preso proprio pochi minuti fa con il ministro del Sud, Giuseppe Provenzano. Abbiamo parlato di tante cose, se non ci avete sentito potete riascoltarci e adesso invece potete cominciare con noi la domenica di Nessuna è Perfetta, sesto anno in cui, sia pure occasionalmente, vi ricordo che il multitasking è una fregatura, ve lo ricordo da 6 anni, non sempre adesso perché credo che sia diventato davvero un patrimonio comune, mi capita di sentirlo dire anche tante volte quando ne parlo anche con gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci seguono da tanti anni per strada o che incontro in altre occasioni. Ma a proposito di multitasking, c'è qualcuno che mi rimprovera. Buongiorno Maria, io mi permetto di farle un piccolo appunto, di sgridarla ovviamente in senso bonario e con il sorriso, però ho notato che ultimamente ha dimenticato di ricordarci saggiamente quanto possa essere dannoso fare troppe cose contemporaneamente, quindi volevo chiederle se è per caso convertita al multitasking, si è un po' ricreduta su questa cosa? Ecco, però l'ho detto che il multitasking è una fregatura e ce ne stiamo dimenticando. Hai ragione però, ogni tanto qui a Nessuna è Perfetta dobbiamo rinfrescare il nostro mantra, ma 828 1212 è il numero al quale ci trasmettete anche un po' i vostri problemi, le vostre sensazioni, le vostre emozioni. Sentite quelle che ci ha lasciato questa nostra ascoltatrice. Approfitto di questa bella trasmissione per raccontare la mia esperienza. Sono mamma di 2 bambini che finalmente hanno ripreso le scuole e io ho perso il lavoro nei mesi scorsi a inizio della pandemia, però ho approfittato di questi mesi di lockdown per organizzare un po' le idee e sto per dar vita a una linea di abiti per l'infanzia. Insomma, un po' di paura c'è, ma sono molto carica e fiduciosa. Speriamo in bene. Allora, in bocca al lupo, in bocca al lupo. Io sono convinta che la positività faccia bene quando si comincia una nuova strada e anche di questo parliamo in questa puntata che è dedicata alle strade che certe volte prendono indirizzi inaspettati. Uno ha una passione, poi fa un lavoro che magari passione non è e alla fine si ritrova a far diventare lavoro quella passione o viceversa. Questo è un po' il tema della puntata di questa domenica, che ha sempre dietro come diciamo retropensiero il tema del cambiamento, il nostro fil rouge delle puntate di Nessuna è Perfetta, in tempi in cui cambiare si deve perché dopo mesi di lockdown e con una pandemia che ancora ci preoccupa, molte delle cose alle quali eravamo abituate stanno cambiando o sono cambiate e dobbiamo forse cambiare un po' anche noi. E ne parliamo subito con la nostra prima ospite, la Sunday Girl. Buona domenica, Loretta Forelli, amministratore delegato della Fonderia Forelli, un'azienda, pensate, leader nel settore della raffinazione dei metalli, un'azienda fondata nel 1925 in provincia di Brescia dalla famiglia di cui appunto Loretta Forelli è erede. Lei voleva fare la giornalista. Andiamo indietro nel tempo. Stiamo parlando della Brescia e della Milano degli anni 60? Negli anni 60, sì. Sì. Ecco, e lei voleva fare la giornalista perché? Perché io mi ero, chiedo scusa della voce, ma mi sono presa una costipazione perché è venuto via un temporale tremendo qui a Brescia e io ero fuori. Allora, mi sono laureata in lingue all'Università Cattolica di Milano e poi ho fatto il corso della Scuola delle Comunicazioni Sociali dove c'era il giornalista Guglielmo Zucconi e amavo, a parte che ero affascinata dalla cultura di questo giornalista puntuale sempre sulle sue notizie, ma poi è stato un grande insegnante. Ho terminato questa scuola delle comunicazioni sociali post laurea, quindi con tutti i colleghi laureati, e poi purtroppo in un incidente ho perso tutta la mia famiglia, 5 persone. Un momento, quanti anni aveva quando è successo? Io avevo 29 anni. E lei pensava di essere avviata al giornalismo perché sì, era la passione di quel momento. Sì, dopodiché sì, succede questa tragedia. Nell'incidente lei perde madre, padre e dei fratelli. Nell'incidente perdo un fratello laureato in economia e commercio, la fidanzata di 26 anni, la fidanzata di 21 che faceva economia e commercio, il terzo anno di economia qui a Brescia, la sorella di 31 che era sposata con un imprenditore di Lumezzane e di 39 anni, il marito e la bambina di 6 anni. Tornavano da Milano e da Linate e alle porte di Brescia in autostrada una carovana di zingari si è staccata dal traino e ha causato una serie di tamponamenti, erano gli ultimi di questa cordata e sono stati travolti da un camion, la macchina si è incendiata e sono morti tutti. Sono rimasti il mio papà e la mia mamma, la mia mamma aveva 57 anni, il papà 62, morto 3 o 4 anni dopo di dispiacere e quindi le aziende erano decapitate. Quindi io ho sposato un medico. E a un certo punto suo padre le ha detto: Loretta, prendile in mano te. No Maria. Mio papà veniva da Lumezzane con una mentalità completamente maschile e quindi ho dovuto fare un salto ma grandissimo di pensiero, di qualità, ma anche a livello familiare, dicendo: cosa faccio? Lascio perdere una storia aziendale o entro non sapendo nulla in azienda? E ho fatto la seconda scelta. Ho fatto la seconda scelta in un mondo prettamente maschile. E pensi che hanno scritto qualcosa su di me dicendo: sta dalla parte delle donne, ma la sua vita è affollata di uomini. Uomini in famiglia, perché avevo 2 figli maschi e che adesso stanno portando avanti un po' il nostro lavoro, mio marito medico, e in azienda tutti uomini, perché nelle fonderie quando lei 40 anni fa è diventata la padrona, come si diceva con Lessi, che è un termine, no? Maria, che non uso mai, non mi ma piace, ci mancherebbe questo. No, però poteva essere vista appunto come ho avuto difficoltà, una che arrivava lì senza certo, senza alcuna preparazione, e magari più di uno avrà pensato: ma io perché devo dar retta a questa qua che ma non ne sa solo, niente del ma, lavoro ma che stiamo da facendo? Parte da parte dei miei impiegati, io avevo una posizione del papà che capiva la necessità di avere qualcuno della famiglia all'interno dell'azienda, ma che aveva percepito da parte della direzione un conflitto qui, questa ci fa le scarpe in poco tempo, per cui mi creda Maria, mi hanno tenuto 2 anni seduta sulla seggiola a guardare, e io che dovevo salvare la figura di mio papà, l'azienda e dire: io sono qua, però ascolto, cerco umilmente di captare tutto quello che non mi vogliono insegnare, io ce la farò. E dopo 2 anni la direzione è andata, il direttore è andato in pensione e io ho continuato la mia strada con successo. Dalla Forelli sono nate altre 3 unità operative, sempre nelle leghe di rame. Senta, che cosa potrebbe dire alle tante donne che non sono magari imprenditrici, ma che coltivano una passione e però appunto poi messe di fronte alla realtà scelgono di continuare un'attività di famiglia che apparentemente non piace a loro, che non le interessa, ma messe di fronte alla realtà che non si butta via un percorso magari non iniziato tanti anni prima dai genitori? Esatto, Maria. Non si buttano via i sacrifici di generazioni, perché la mia famiglia, anche il papà, non aveva grande cultura, ma grande lavoratore, molta diciamo onestà intellettuale, per cui è stata una pedina di lancio per me andare avanti con questi concetti. Io seguo con interesse l'evoluzione della partecipazione femminile al lavoro, sa? Attraverso quei cambiamenti che stanno verificandosi anche nei modelli socioculturali, sull'organizzazione della famiglia, sulla suddivisione dei compiti nella cura della casa e della famiglia, sull'autonomia femminile. E dico forza donne, noi ragazze ce la faremo. Grazie, grazie a Loretta Forelli, amministratore delegato delle Fonderie Forelli di Brescia. Buona domenica, grazie per essere stata. Grazie dottoressa Latella, grazie tante. Nessuna è perfetta. Eccoci, eccoci di nuovo a Nessuna è perfetta. E a proposito di passioni, di lavori che cambiano, perché nella vita un tempo si era abituati a fare lo stesso lavoro dai 20 anni all'età della pensione, invece non è così. Ma per molti non è così da tempo. Per esempio... L'ospite che andiamo ad ascoltare adesso ha una passione che sta diventando sempre più importante nella sua vita e lo è da tanto tempo. Buona domenica Dario Ballantini, che è un artista, è un creativo poliedrico. Anche ecco, troppo. Mi piacerebbe, sì, mi piacerebbe tantissimo, lo ammetto, riuscire attraverso la radio a far sentire un pezzetto del Ballantini imitatore trasformista, quello che abbiamo visto nei panni di... Qual è l'imitazione Ballantini alla quale sei più affezionato? Ma allora, non si può nascondere che Valentino sia stato il trascinatore di tutti i personaggi. Però come legame personale, l'ho detto forse anche un po' troppo, l'imitazione di Gino Paoli, perché era difficile far ridere con i silenzi, con i suoi, con le sue riflessioni un po' ombrose, ecco. No, però certamente Valentino rimane nella... come sì. Dire, nella pupilla, no? Di tutti noi, più ormai nella tua imitazione che nel reale. E però noi qui questa domenica, siccome parliamo di passioni che poi sì. diventano quasi più importanti dell'altro lavoro, o comunque sì. di scelte di vita che cominciano in un modo e poi portano da tutta un'altra destinazione, vogliamo parlare di Dario Ballantini, pittore che fino a pochi giorni fa, proprio nella tua Livorno, ai Bottini dell'Olio, hai tenuto la mostra antologica della vita, 40 anni di pittura, ma quando hai cominciato? Beh, ho iniziato prestissimo, perché infatti pur essendosi manifestata in maniera pubblica e numerica l'altra attività per la televisione, c'è da dire che la pittura, se si va a vedere, parte prima, perché parte mio padre dipingeva quando ero bambino io, ma poi Livorno è proprio una città piena di pittori, credo sia la città con più pittori in assoluto in Italia e chissà se nel mondo. Vabbè, citiamo Modigliani? Eh? Sì, o Fattori, o tutti quelli che le sono venuti di conseguenza a questi due, c'è cioè una strada che è andata dai Macchiaioli, post Macchiaioli, quella di Fattori, ma è quella di Modigliani, insomma, un certo espressionismo, una certa aria da maledetti che è tutto l'altro filone ed è un po' più quello che ho seguito io. Comunque, avendo fatto il liceo artistico, quello era il primo sogno. Non si può negare però che ci fosse anche l'altra professione in erba alle spalle, perché già al liceo artistico facevo comunque gli spettacolini, eccetera, facevo le due cose, certo, la TV ha dato successo per prima e ho tenuto un bel po' nascosta l'altra attività, che poi si è palesata quando sono diventato più noto in TV, sono iniziate le interviste, hanno cominciato a chiedermi cosa avessi fatto fino allora, perché Valentino esplode sui miei 32 anni o 35, sono già in su, diciamo, nella carriera di tentativi televisivi. Sono due strade che sembrano non doversi congiungere, no? Perché la pittura è, almeno come la immagino io, che non sono certo un'esperta, è solitudine, è il pittore nel suo studio, oppure il pittore di fronte a un'immagine della natura che lo coinvolge, ed è appunto unidirezionale, il pittore e la sua arte. Sì. L'altro aspetto, la TV invece, è riunioni, scelta del personaggio, studio del personaggio, è un lavoro di gruppo, immagino io, o no? Sì, però io ci ho sempre convissuto con le due cose, perché nella mia pittura c'è una poetica che è la mia ed è distinguibile, ed è l'essere umano che lotta con se stesso e col suo inconscio, diciamo, è un espressionismo esistenziale. Faccio sempre delle figure umane che possono anche ricordare il raddoppiarsi dei volti, delle facce, eccetera. E io lo collego molto invece all'altro lavoro di solitudine, televisivo, di spettacolo, perché essendo vestito da un altro personaggio, di un altro, cioè prendendo i panni di un'altra persona, in quel momento c'è una parte di me stessa che si isola e rimane da solo a fare il burattinaio di quel pupazzo, tra virgolette, che sto interpretando. Quindi tocco sempre le corde dell'essere umano, da un lato per far ridere, per far vedere che tutti possiamo diventare tutto, almeno io ho cercato di diventare talmente tante altre persone rispetto a me, che la cosa mi fa riflettere su cosa sia l'essere umano, cosa possa essere l'essere umano, che è la tematica dei miei quadri. Dunque, Nessuno è perfetta parla di donne e di lavoro. Qualche tempo fa al Museo d'Orsay ho visto una mostra meravigliosa dedicata a Berthe Morisot, una grande pittrice che è stata per molto tempo, diciamo, misconosciuta, poi in realtà anche nella più tarda età le hanno dedicato mostre, eccetera, però insomma lei era una grande impressionista francese, ma il fatto di essere donna l'ha sicuramente penalizzata, eppure ti assicuro, quella mostra mi ha veramente aperto gli occhi. Lei viveva insieme ai grandi pittori del suo tempo, ma era donna e quindi la calcolarono pochissimo. Era la cognata di Manet, quindi ha vissuto in un contesto di geni, appunto, della pittura. Non credi che ancora oggi le donne facciano un po' fatica nel mondo dell'arte? Fanno magari molta fatica. È più facile per una donna scrittrice, ma una pittrice fa ancora tanta fatica. Fa molta fatica, ma il discorso viene da lontano, perché la storia della superiorità della donna è ben nota a certi storici che vanno a vedere proprio le origini delle prime società, eccetera. È il maschio che, avendo visto la potenzialità della donna, poi l'ha messa in una condizione di di non poter accedere a certi mondi che sono appannaggio dell'uomo. Quindi per forza di cose, nella storia, essendo stato sempre messo da parte dal punto di vista, per esempio, dell'arte, è chiaro che produce delle opere che hanno in sé una storia minore proprio temporale di tentativi di essere artiste, perché non gli è stato permesso, e quindi le donne sono rimaste indietro, però per un freno che gli ha dato il maschio, diciamo, nella storia. E poi certo, e anche i galleristi negli anni non hanno mai puntato tutti, troppo, certo, no, sulle pittrici, e vediamo se le cose cambieranno. Prima di salutarci, Dario Ballantini, torniamo all'altro Dario, al Ballantini, sì, della TV. L'imitazione alla quale stai lavorando e che ancora non abbiamo visto. Dunque, dobbiamo lavorare ora sulle nuove figure del governo, perché abbiamo fatto Conte, Mattarella, Renzi, Salvini, eccetera, e ora si dovrà puntare su quelli più esposti durante questo periodo, quindi è allo studio il ministro della salute. Ah, beh, guarda che fare l'imitazione di Bob Hope, di Roberto Speranza, sarà una sfida, perché è molto difficile acchiapparlo, sì, da qualche parte. Quindi molto curiosa di vedere la prossima imitazione di Dario Ballantini nelle vesti del ministro della salute Roberto Speranza. Grazie. Pittore che è stato con noi e grazie anche all'uomo di televisione Dario Ballantini. Buona domenica. Grazie. Promo 24. Piemonte bellezza singolare. Scopri i borghi storici e siti UNESCO con le residenze barocche. Piemonte libertà singolare. Immergiti in panorami unici. Esplora le 96 aree naturali protette. Scegli il tuo itinerario sui 20.000 km di percorsi a piedi o in bici. Piemonte gusto singolare. Assapora l'autunno col tartufo bianco d'Alba e i grandi vini di 18.000 cantine. Piemonte spirito singolare. Vivi i percorsi dell'anima, i sacri monti, la via Francigena e le sinagoghe. Il Piemonte che non ti aspetti, scoprilo su visitpiemonte.com. Nessuna è perfetta. Eccoci, ultima parte di Nessuna è perfetta. Abbiamo parlato di passioni che prendono un indirizzo e ti portano magari lontano dalla professione che avevi immaginato per te nella vita. E oggi è con noi una giovane donna che di passioni ne coltiva molte con impegno e che negli ultimi mesi ha avuto ben due produzioni, due effetti di queste passioni. Una è il libro che è appena pubblicato da Marsilio, Ama e fai quello che vuoi, e l'altro è il film presentato alla mostra del cinema di Venezia, Isola, un film prodotto da Indiana e girato interamente col suo telefono cellulare. Buona domenica, Elisa Fuxas, che è stata qui ospite di Nessuna è perfetta già in molte occasioni. Abbiamo parlato anche del suo primo libro, Figlia di, e qui invece ci sono le due passioni, la regia cinematografica e la scrittura, che si incontrano. La domanda banale sarebbe: ma qual è, diciamo, la professione numero uno e qual è la professione numero due? Siccome è banale, te la faccio. Beh, giusto, grazie. È sempre la cosa migliore partire dalla cosa più difficile, no? Perché essere banali è la cosa più che richiede più lentezza, se vuoi. E in realtà più che la professione è l'identità, no? Quale Elisa la A o la B, o se si invertono o se sono la stessa. E io credo che poi alla fine ogni storia ha bisogno di un suo mezzo, e quindi sono contemporanee e coesistono le due persone, le due personalità, le due identità e anche i due lavori. Allora, partiamo dal film che è il prodotto di una grande preoccupazione che si è andata sviluppando nei mesi del lockdown. Vuoi raccontarci tu com'è nato Isola? Guarda, è molto strano perché quest'anno tutto avrei pensato tranne che fare un film. E io una settimana prima del lockdown ho ricevuto una telefonata da un medico che mi dice che avevo un cancro alla tiroide. Quindi tu immagina la reazione. Immediato è il terrore e poi delle soluzioni. Certo. Di solito cerchi qualcuno che ti dica che non è così, no? No, guarda, sono sbagliati, no? Guarda, si può evitare. Comunque questa è la premessa. E dopodiché succede quello che sai, pandemia, non più solo un'epidemia ma una pandemia, la mia migliore amica si ammala a sua volta di cancro e io sono solo a casa in tutto questo. Allora, a Roma? Che vuol dire? A Roma. Che vuol dire non sapevo che stavo facendo un film? Perché la maggior parte del materiale che poi è finito nel film erano filmati, proprio le chiamerei registrazioni, per gli amici, per i miei genitori che non erano a Roma, erano partiti per un weekend in campagna, non sono ancora tornati e quindi non hanno niente di cinematografico, sono memorie, sono cose estremamente personali. E poi ci sono ovviamente la solitudine era compatibile con questa comunicazione con cellulare, l'abbiamo fatto un po' tutti nei mesi di lockdown, poi in più immagino non poter vedere i genitori perché appunto il Covid era comunque una cosa che poteva mettere a rischio te come malata e anche tuo padre magari perché poteva avere paura, no? di venire a Roma a prendere un contagio. Quindi la solitudine è stata un po' la chiave di questo sì. Sopravvivere al lockdown e combattere un cancro. Com'è andata poi? Dici intanto com'è andata con la malattia. Intanto già che parlo è un buon segno, vuol dire che sono viva, che insomma sì. Mi sono operata e che sto abbastanza normale, abbastanza bene. E però la cosa credo fondamentale da raccontare di questo film è che poi è un film sul potere del racconto, perché a me mi ha salvato dall'impazzimento, dalla fuga verso non so cosa, perché in quei giorni sembrava c'era questa claustrofobia folle, se ci pensi, no? Perché io avevo la doppia claustrofobia di stare in casa e anche di avere un nemico in casa mia, che è il mio corpo, quindi molto strana come sensazione. Mentre invece il libro, che è nel titolo ispirato a una altrettanto celebre frase di Sant'Agostino, una citazione che è sempre, come dire, molto confortante: ama e fai ciò che vuoi. Beh, il libro è maturato nello stesso periodo? No, allora, il libro sembra una strategia di marketing tipo becera, ma in realtà è il caso. Da sempre, cioè da un anno, io sapevo che sarebbe uscito il primo di settembre. Poi la casualità ha voluto che uscisse un giorno prima di Venezia e quindi del film. E sono circa 4 anni che io ci lavoro, perché racconta il mio battesimo, cioè il percorso sgangherato, divertente e impensabile, se vuoi, di una donna adulta che era convinta di essere libera e si scopre invece prigioniera di tante cose, e scoprendo poi Gesù. Quindi è proprio il paradosso di paradossi, soprattutto perché tutti i miei amici, la mia famiglia, chiunque, quando io raccontavo quello che stavo facendo, cioè una sorta di catechismo, anche se a modo mio, perché comunque, come mi dice sempre il mio prete, poi che è quello che mi ha accompagnato in questa avventura, il mistero ti parla la lingua che puoi capire e parlare, quindi diciamo, se no non ci sarebbe comunicazione. Però questa è la storia. Ma ti dico, quando lo dicevo appunto ai miei amici o alla mia famiglia, diciamo, sei pazza, cosa ho sbagliato, sei sì. Alcolizzata, che ma succede? Però depressa. Mi sbaglio o i tuoi genitori, il famoso archistar Fuxas e l'altrettanto famosa architetta Doriana Fuxas, si sono sposati dopo tanti anni di matrimonio celebrato civilmente, si sono sposati anche con un rito religioso. Ho letto male la notizia da qualche parte. Non sbagli mai, sei molto informata, attenta e precisa, quindi dici la verità. È così, però diciamo che io ho iniziato a pensare al battesimo tradendo. Cioè, la prima volta che ho tradito un mio fidanzato, l'uomo con cui lo stavo per tradire mi ha detto, con cui non era mai successo niente, e mi ha detto: io ti voglio sposare in chiesa. E tipo Woody Allen, ho visto tutto, ho capito il coro che mi diceva: ah, ma tu non sei battezzata, dove vai? Che è una stupidaggine, sembra, però è, capito, il primo incontro con una cosa che ovviamente preesisteva in me e che poi ha iniziato a, in modo martellante, ossessivo, ad apparirmi, capito? Tutto mi portava con la mia lingua, ovviamente, con ironia, con anche con insomma la grande malinconia che è in questo libro, addio, capito? Però i miei genitori, quando me l'hanno detto che si dovevano sposare in chiesa, per me è stata come una rivoluzione, ma anche la morte, insomma, come? Ma però, che c'entrate con la chiesa? Però col pudore dei figli non mi sono permessa di chiedere. Grazie, buona domenica Elisa, ci aspettiamo. Grazie. Alla terza vita professionale. Va bene, la reincarnazione a questo punto, dai. Grazie. Ciao, buona domenica. Ciao. Grazie a tutte e a tutti che ci avete seguito in questa puntata di Nessuna è Perfetta, grazie alla nostra Gaia Romani, grazie in regia al nostro Ale Chiappini. Noi ci sentiamo, se vorrete, domenica prossima alle 10 con il caffè della domenica e poi subito dopo con Nessuna è Perfetta. Ciao! Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite, suoruba.it